Senta. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La Juventus trionfa per la 12ª volta nella Coppa Italia e per la 3ª consecutiva, nuovo record assoluto e primo trofeo stagionale. Noi facciamo un sport collettivo dove penso di che la forza nostra è questa, no? Il lavoro di squadra, il sacrificio, la voglia di vincere, la voglia di fare storia con questa squadra, di fare cosa grande con questa squadra e siamo nel cammino benissimo e con tranquillità. Stasera diciamo è stato un altro gol pesante, è bello festeggiare questa coppa e fare qualcosa di storico, cominciare da questa qui per poi continuare con quella scudetto e a Cardiff per chiudere l'anno da leggenda. Fuori scena e fuori onda ieri incrocio il mio amico Giuseppe Cruciani e gli dico: beh, stasera siccome si può fare, la Juventus rischia dopo la sconfitta di Roma, la Lazio è forte, una piccola Juventus arriverà motivatissima. risposta: la Juventus due di fila non le perde. Grazie. Pardo. Ha ragione Cruciani, col quale ho visto il secondo tempo e ci ha raggiunto ieri sera un'allegra compagnia, ha ragione Cossano, anch'io dico ha ragione Cossano di poi, però queste cose qui mio sono... pensiero ieri era quello. No, ma sono cose che si sentono, poi ovviamente uno si può sbagliare, tante volte mi sono sbagliato, lo score e quello che è successo quest'anno dimostra che la Juventus quando ha perso poi ne ha vinte 3, 4, sì, ma 5, la tua 6, era più che altro cabala. No, ma non è cabala né scaramanzia, era la logica di quest'anno. La logica di quest'anno dice che poi naturalmente tutte le logiche sono fatte per essere ribaltate, però la mia sensazione ieri non era affatto scaramanzia, perché non serve la scaramanzia contro la Juventus, era questa, cioè la Juventus ogni volta che ha perso quest'anno, e quest'anno ha perso credo forse più dell'anno scorso, sì, comunque uguale qualcosa in più rispetto all'anno scorso, ha messo insieme una serie di vittorie consecutive. Questo è quello che è successo e francamente solo lo scudetto vinto domenica a Roma contro la Roma poteva fare in modo che la Juventus si rilassasse. Non sono d'accordo e non lo sarò mai, anche se poteva innescare un meccanismo di rilassamento ieri, magari. No, secondo me poteva togliere pressione, invece poteva darla come cosa già fatta, perché la Juventus è più grande ancora di queste cose. Lo chiedo a Pardo prima che a Giuseppe, ti ha deluso la Lazio ieri sera? Sì, mi ha deluso, ma probabilmente non è che mi ha deluso la Lazio, perché quando la Juve gioca a certi livelli non ce n'è per nessuno. Poi sicuramente, insomma, calcio sono due squadre, se una vince sull'altra, se una fa meglio di quello che mi immaginavo e l'altra fa peggio, è un insieme, no? Sono concause. Però io credo ci siano soprattutto i meriti della Juve, ha ragione Giuseppe, le sconfitte della Juve quest'anno sono state sempre sconfitte tutto sommato indolori, nel senso che la Juve ha perso all'inizio dell'anno a San Siro contro l'Inter, ma era già in testa alla classifica, quindi insomma alla fine mi sembra che, ed è un tratto della gestione di Allegri, che sappiamo che non è un martello da questo punto di vista, non gliene frega niente dei record, non gliene frega niente della perfezione ed è uno che invece lascia respirare in qualche modo, non gli frega niente neanche di massacrare i giocatori come, esatto, come invece faceva Conte, perché la grande intelligenza di Allegri è questa. A te ha deluso la Lazio ieri sera? A me sinceramente un po' sì, poi qui ci diamo ragione tutti quanti, però io mi aspettavo onestamente qualcosa di più al di là di quell'avvio col pari di Keita. Allora, no, la Lazio non mi ha deluso, la Lazio ha fatto la partita che doveva fare, e poi qualcuno dice abbiamo prestato troppo il fianco alla Juventus, forse avere un atteggiamento più prudente, tutto, col senno di poi non... si può dire tutto. Certo, l'errore della forse mancata marcatura, la mancata marcatura di Dani Alves, però quella, ragazzi, è la Lazio, cioè stiamo parlando di una squadra della seconda fascia del campionato italiano. Ma prima arriva quarta. No, la seconda fascia comunque di valori, come valori del campionato italiano, nella prima fascia ci sono le tre squadre. Poi c'è tutto il resto, una squadra che è di seconda se non terza fascia a livello europeo, e la Juventus è in finale di Champions League, e questo è... Beh, cioè, è chiaro che la Juventus è più forte, però io al contrario... Ragazzi, quando mai è successo nel calcio europeo negli ultimi anni, non parliamo delle finali di Coppa Italia o delle finali di coppe degli anni passati, ormai la Coppa Italia giustamente viene interpretata anche da grandi squadre, guarda il Bayern Monaco in Germania, guarda forse la Spagna un po' di meno, ogni tanto arriva qualche squadra, diciamo, non arriva né a Madrid né il Barcellona, adesso non mi ricordo quest'anno la finale di Coppa del Re che cos'è, però insomma... quest'anno la finale la finale di FA Cup è tra l'Arsenal e il Chelsea. Comunque negli ultimi anni non c'è una squadra forte che perde la finale con una squadra più debole, è molto raro. Questo è vero, perché una volta che sei arrivato fin lì, se la Juve gioca concentrata, Barcellona gioca con l'Alavés, tanto per dirne una. Se il Barcellona gioca concentrata, se la Juve gioca concentrata, la Lazio perde la partita, cioè c'è poco da fare. Così, sì, cioè, se la metti sul piano dei valori, sì, però è anche vero che sulla partita secca può banalità totale, può succedere di tutto, e magari puoi anche, invece di usare paradossalmente un atteggiamento più difensivo, cosa che si può rimproverare ad Inzaghi, io non glielo rimprovero, si è visto qualcosa di diverso con l'ingresso di Felipe Anderson, che voi sapete è un giocatore che per il quale io ho un debole, e magari poi addirittura, visto che sei sfavorito ieri sera, tra l'altro, parentesi, cornice meravigliosa con tutte le teste coronate d'Italia, soprattutto perché non è successo nulla, nonostante il fatto che la Lazio abbia perso 2-0 sostanzialmente non in casa, lo stadio era diviso a metà, non è successo assolutamente nulla, e questa è una cosa sempre positiva. La Lazio forse poteva sorprendere la Juventus, addirittura rischiando qualcosa di più. Se rimetti sulla bilancia, è chiaro, la Juventus pesa di più, va bene, però è reduce dalla sconfitta di Roma e magari puoi farle paure in un'altra maniera. Non c'è niente da recriminare, purtroppo il calcio va così, certo, poi col senno di poi si può dire se Keita la palla la mette non fa quella smanacciata sulla linea e la partita va 2-1, eravamo insieme a Pardo davanti a un grande televisore insieme al signor Freccero, che faceva un tifo sfrenato per la Lazio, essendo leggermente anti-juventino, signor Facciero. Ma non è che ho detto leggermente anti-juventino. Facevo un tipo sfrenato ed è leggermente anti-leggermente. Cioè per gli indiani, tifa per la squadra più debole, per il tennista più debole. Sì, a proposito, vabbè, Fognini ha perso agli internazionali. Eravamo lì e tutto ci aspettavamo, chiacchieravamo di altro, guardavamo distrattamente la partita, tutto ci aspettavamo un gol della Lazio. Cioè tranne il gol della Lazio, cioè non era chiaro che la Lazio difficilmente avrebbe segnato il secondo tempo, perché sono quelle partite che a un certo punto si incanalano verso un risultato, la Juve è blindata, hai due occasioni, se quelle non entrano la partita quindi finisce. Quindi domenica il Crotone può non presentarsi ogni partita è diversa. Una sul fatto che secondo me il secondo tempo buono della Lazio, con tutto il rispetto, però in qualche modo è condizionato dallo 0-2, secondo me la Juve l'ha quasi accettata come condotta. Certo. E la seconda cosa, tu sai quanto mi piaccia la Lazio, quanto dall'inizio della stagione la sostenga il fatto che sia un'ottima squadra, e non mi sorprende il quarto posto in classifica. Devo dire che forse un piccolo limite di questa squadra è quando aumenta un po' la pressione. Certo. Si dirà del derby di Coppa Italia, ma nel derby di Coppa Italia, ricorderete, la Roma era strafavorita, soprattutto all'andata, quando ha buttato via la qualificazione, aveva appena vinto contro l'Inter a San Siro con un super Nainggolan, sembrava strafavorita. Invece nel derby d'andata, quando la Lazio era arrivata con un ottimo stato d'animo, un ottimo atteggiamento, aveva un po' deluso. Ecco, no, c'è un limite, secondo me è un po' questo. Assolutamente, io sono d'accordo su questo e sono anche convinto che la finale, giocare le finali in casa come la Lega si è inventata da un po' di tempo a questa parte, secondo me sbagliando clamorosamente. Anche tu la faresti itinerante? Io la farei itinerante ogni volta in uno stadio neutro, non si capisce perché debba essere l'Olimpico uno stadio però che... sai, normalmente anche l'Inter il pubblico era diviso a metà, c'è un grande incasso, per carità, va tutto bene, però sono convinto che metta grande pressione alle squadre che giochino in casa, cioè la Roma o la Lazio che sia. Metta grande pressione. Io credo che delle partite giocate in casa, delle finali, sia quasi sfavorevole il bilancio alle squadre che hanno giocato all'Olimpico, Roma o Lazio. La Roma ha perso sicuramente con l'Inter a Roma una finale, sì, quella del triplete dell'Inter. La Lazio ne ha perse due con la Juve, ne ha vinta una con la Sampdoria, da quello che ricordo. Vinto il derby. Ha vinto il derby in finale, però in quel caso... Vuoi lì non avere addosso pressione? Questo confuta un po' la tua ipotesi. No, però io il massimo della pressione. Stiamo parlando naturalmente, non abbiamo la verità in tasca. Vabbè, comunque continuiamo a discuterne con un ospite che stiamo aspettando dopo il traffico. Tutti convocati. Convocati. Quando dia mal chegar, não vai desanimar e esmorecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Mostre o sorriso no rosto, que a sua vitória já está pra chegar. Papai do céu abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar. Quando a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando o sol clarear, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu quero ainda que cuide de ninguém nessa vida. Eu só quero o que é meu. Se ainda não entendeu, nunca foi só e sempre fui Deus. Bello, vado a sentire per un po'. Questo è Dani Alves che grandissimo, canta, sì. Grandissimo. Poi giocatore, beh, rigenerato è una parola inesatta. È entrato nella macchina del tempo. Perché ma è chiaro che non può più giocare una stagione, tutta una stagione ai livelli, allora, di adesso, di queste settimane. Ma questi livelli non lo vedevamo da 4 anni, secondo me. Allora, Dani Alves, intanto saluto e ringrazio Giancarlo Marocchi. Ciao, grazie a te, un saluto a tutti. Ciao. Anche in particolare a Cruciani, che mi fa compagnia nelle repliche, nei miei viaggi. Ciao Giancarlo. Nelle repliche, nei viaggi notturni. Giancarlo, ti piace lo stile pacato, misurato, sobrio, che in certi momenti indugia anche, diciamo, in una parte anche divulgativa, cioè vuole, ti piace essere anche un po' didascalico, fare formazione. Vabbè, il pacchetto si prende al completo, non è che bravo Giancarlo. Siamo tutti pazzi della Zanzara, sono sempre sottoposto a queste ironie pardiane ogni tanto. Io sono un fan della Zanzara, adesso chiamo la segreteria e registro un messaggio. Sì, in redazione, ma il soprannome nome di Pardo è soprannominato Kofi Annan. Esatto. Kofi Annan Cruciani. Che devi chiedere a Giancarlo, vai. Devo chiedere a Giancarlo, no, a tutti voi una cosa. Allora, Dani Alves con quello di ieri ha raggiunto i 32 trofei vinti in carriera. Ibrahimovic ne ha agli stessi, Messi ne ha 29, Iniesta 30. Tra gli ex giocatori c'è Giggs con 35 trofei, ma c'è un giocatore ancora in attività che ne ha vinti di più. Io lo so, Maxwell. Ma dai, ma così non vale, Marocchi, non ti chiamo più. Chi è? Maxwell. Che gioca nel Paris Saint-Germain, ex Inter. Ma questo ha inanellato 5 scudetti di fila col Paris Saint-Germain, e questo è il punto, 6-7 di fila. Con tutti, lui era dappertutto, quando vincevano c'è lui c'era. Quindi è il primo giocatore da prendere all'Inter, da riprendere all'Inter. Beh, potrebbe essere un'idea che non faccia come Dani Alves, però, perché secondo me lui è venuto qui pensando fosse decisamente più semplice vincere rispetto agli altri campionati, e nella prima parte era decisamente sfasato, diciamo così, ecco. E appena è tornato sul pezzo dopo l'infortunio, che dire, è l'uomo forse più decisivo, cioè non lo so, veramente decisivo. Sì. Sì, guarda, ieri gli abbiamo dato un po' una mano con sì, questa marcatura che non c'era, però, però per esempio la scelta del tiro, su questo Giancarlo ci può aiutare, comunque da grande campione, perché lì si possono fare tante cose, anche buttare la palla in tribuna a un certo punto, invece lui decide di calciare al volo, comunque si può decidere per esempio di controllare il pallone, ma no? Ha una tecnica tale, invece lui decide di calciare, e tra l'altro secondo me la fa battere per apposta. Terra apposta, cioè questo è il punto. Su questo non ci giurerei, secondo me comunque se vai col collo o la prendi bene o la mandi in curva. Se vai col piatto, che c'è maggior appoggio, sì, quindi il pallone può sbatterti a più spazio per essere colpito, non svirgolato, ecco che puoi colpirla bene e fai gol. La colpisci così, sbatte per terra e fai anche una specie di pallonetto. Quindi, e la puoi colpire anche quando è ancora alta, quindi anticipi il piazzamento del portiere. Lui ha fatto tutto quello, ma non l'ha neanche pensato. Cioè, quando uno è capace, lo fa e basta. Ecco, cioè, non è che. Però comunque devo dirvi, ragazzi, che per esempio parlo di casa Lazio. A me questo portiere che hanno tirato fuori, Neto? Stracoscia. Non mi dispiace per niente. No, bravo, buonissimo. Lo chiedo anche a ha fatto una parata miracolosa su Higuain a un certo punto, prima del 2-0 della Juventus. Sì, è un eccellente portiere. Simile a quella che ha fatto Neto a un certo punto sul 2-0, che ha quasi altra intuizione di dare. Voglio chiederlo anche a Giancarlo, l'ho chiesto già a Pierluigi e a Cruciani, e a me stesso ho risposto che un po' mi ha deluso la Lazio ieri sera. A te? Beh, sì, perché che ne dica Inzaghi e Cruciani, Paolo, tutto nella stessa azione, quindi tutto molto concentrato. Ha deciso la Juve che cosa fare, cioè, quindi ha attaccato, è andato in vantaggio nel primo tempo, secondo me ha anche deciso di far meno fatica a difendere, sì, tutti appoggiati dietro un secondo, e la Lazio, sai, c'è sempre il punto interrogativo, ma uno come Felipe Anderson che mi eccita in modo pazzesco, è da tenere in panchina per poi usarlo quando gli altri sono stanchi, a scapito dell'equilibrio. Boh, io che sono neutrale dico che lo voglio in campo, perché quelli buoni devono stare in campo. Non voglio vantarmi di questa cosa che ha detto Marocchi, ma l'ho appena detta anch'io. Comunque non voglio vantarmi, non me ne guardo bene, Pardo. No, ma è vero, ma sai, però è così come è logico il dubbio di ieri sera, è anche vero che spesso la Lazio l'equilibrio ha trovato senza Felipe Anderson, quindi è esattamente una di quelle discussioni, lo so, di quelle diatribe infinite, accademiche, finché vuoi, però sei più debole, provi a far saltare il banco. Sì, io 2 anni fa ho visto Kakà, cioè in quelle 11-12 partite della primavera dell'anno di Pioli, del terzo posto, io ho visto un giocatore che mi ricordava clamorosamente Kakà, non penso di bestemmiare, cioè, oggi già lo so che qualcuno farà ironia, ma se vi ricordate quelle 12-13 partite era veramente un crack assoluto, poi anche perché si è un po' perso, è diventato forse un po' prevedibile, i difensori avversari sì, però salta meglio l'uomo come nessuno, cioè, c'è un modo per mettere in difficoltà la corazzata, è quella di aprire dei buchi in quella chiglia. No, ragazzi, voglio chiedervi una cosa, noi siamo qui per questo, per carità, anche per analizzare, per la grande fantasia dei giornali di oggi. Io francamente fare un appunto tattico e ripeto, siamo qui per questo ed è giusto che lo facciamo, altrimenti che cosa ci stiamo a fare? Fare dopo questa stagione un appunto tattico su come ha affrontato la Juventus a Simone Inzaghi è quasi una bestemmia. Ha ragione Pardo che le partite la Lazio le ha giocate benissimo, anche facendo entrare dopo Felipe Anderson. Forse ieri con Parolo messo in quel modo, sono ruoli diversi ovviamente. Però se tu invece la vedi da questo punto di vista, è stato talmente bravo da meritarsi anche delle critiche quando fa un piccolo errore? Sì. Ho detto certo, assolutamente. Bisogna vedere sempre se è un errore, naturalmente. Col senno di poi è chiaro che Parolo in campo a mezzo servizio, dunque togliersi anche la possibilità di una sostituzione, avendolo sostituito al 20° del primo tempo, e Felipe Anderson che comunque ha fatto bene il secondo tempo. No? Come? Farlo giocare titolare, no? Sì, ma potevi anche cambiare tutto, dici tu, potevi anche... Rischi, fai l'all-in, perché è chiaro che giochi con una squadra più forte. Io sottolineo la grandissima fantasia, tutto rispetto, dei quotidiani sportivi di oggi, Gazzetta, Juve e 1, Corriere dello Sport uguale Juve E1 cambia tutto sport che ha levato Juve, ha scritto solo E1 grande così. Beh, non è qui... tanto la fantasia, il problema è che fossi dalle parti di Torino comincerei a toccare un po'. Bravissimo, allora è lì che voglio è lì che voglio arrivare, ragazzi. Allora fatemi fare quest'ultimo giro di opinioni prima di salutare Marocchi. Comincia a venirmi un piccolo sospetto che ci sia troppa così convinzione, vedo un rischio, ma ci sia troppa convinzione, troppa sicurezza, quello c'è dalla partita d'andata col Barcellona, cioè è dalla partita d'andata col Barcellona. Mi è venuto in mente così. È dalla partita d'andata col Barcellona che la parola triplete, a parte che si pronuncia dall'inizio dell'anno, continua a essere ripetuta più volte. Ma quello credo che sia abbastanza normale. Se non sono in grado di reggere la pressione di giornali e di tifosi che invocano il triplete come fosse una sicurezza assoluta. Ma ti ricordo che anche con l'Inter di Mourinho si cominciò a parlare di triplete incessantemente a partire da marzo-aprile. Questo è vero, ma si dava per scontato una finale anche quel famoso 4-0 del Milan allo spocchioso Barcellona di Cruyff. Giancarlo. No, ma tanto bisogna pensare a quello, bisogna pensarci proprio al triplete, quindi se anche l'ambiente ti spinge a pensare solo a quello, infatti qualche pareggio, qualche sconfitta, è proprio perché se vuoi vincere la Champions devi pensare solo a quella. E quindi in campionato magari si allungherà l'ultima, non lo so, tutto quello che vuoi, tanto siamo arrivati con la Roma e Napoli un po' più vicini e questo fa bene, ma per vincere la Champions, visto che tra l'altro contro c'hai dei mostri, ogni due portieri hanno 16 giocatori, uno più bravo dell'altro, sì. Però vuoi perché delle volte sembra scritta, vuoi perché ne hai già perse troppe, vuoi perché non lo so, i famosi 7 anni di un'italiana, eccetera. Voi perché l'ambiente lo vuole, ma i giocatori stanno pensando solo a quello ed è giusto che sia così. Grazie Giancarlo, come grazie, sempre. Un saluto a tutti. Ciao. È normale che pensino solo a quello. Cioè, è evidente che la stagione della Juventus, anche se non avesse vinto lo scudetto, avesse vinto la Champions, sarebbe stata una stagione trionfale. Dall'inizio dell'anno la Juventus pensa soprattutto a quello. Il campionato possiamo dirlo che l'ha vinto quasi per inerzia, diciamo la certo. verità. Cioè questa è la realtà, pensano solo a quello e dopo il 3-0 col Barcellona sono sempre più convinti di portare a casa questa roba. C'è cioè, Real Madrid in mezzo, 0-0 di Barcellona, ma no, ma anche stata... dopo il 3-0 in casa col Barcellona c'è stata grande sicurezza di arrivare in fondo, ragazzi. Poi una partita, ricordatevi che nel 98 la Juventus con Real Madrid era super favorita nella finale, infatti, con Real Madrid. Infatti, ragazzi, com'era favorita, com'era sì, favorita sì. a Monaco di Baviera l'anno precedente contro il Borussia sì. Dortmund, per cui il dibattito sul triplete si riduce secondo me a una partita, adesso con tutto rispetto per il Crotone in Bologna non credo che la Juve ma no, questo è evidente, io dico una cosa, non è possibile, la Juventus deve chiudere domenica perché altrimenti l'ultima partita a Bologna ci sarà grande pressione su, io do per scontato la vittoria della Roma a Verona col Chievo. La partita di domenica è molto importante, la Juve deve chiudere domenica altrimenti ci sarà una tale pressione sul Bologna per giocare la partita che tipo Perugia contro la Juventus tanti anni fa, esatto. Che certamente il Bologna però non la regala. Tu mi dici la Lazio è troppo debole per battere la Juventus e poi il Crotone e il Bologna possono farne perdere uno scudetto già vinto. Possono pareggiare, devono pareggiare, sì. Non devono vincere, devono allora, pareggiare. Borsa 800240024, che fai, ti fermi o vai? Te ne vai, ciao. Ciao, grazie. Borsa comunque e poi torniamo. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Non è questione di attaccare la spina. In una stagione non puoi giocare 57 partite Quindi quando giochi 57 partite vuol dire arrivare in fondo a tutte le competizioni e pensare di vincere tutte le partite. Poi dopo è normale che ogni partita dove ti manca il risultato c'è sempre una critica, giustamente, ma i ragazzi sono umani e anche fisiologico. Io tra le due partite, quella dove mi sono arrabbiato più di tutto è quella dove a Bergamo abbiamo preso gol a un minuto alla fine. Perché nelle partite di calcio bisogna capire i momenti. C'era uno a terra di noi con mezzo litro di sangue che colava dalla testa e noi abbiamo dato la palla a loro e abbiamo rischiato di prendere gol. Quel momento lì la palla si mette fuori, ci mettiamo a posto e non prendiamo gol. E poi dopo ce n'è stata un'altra, un minuto alla fine del primo tempo, c'è una palla mezza e mezza, si è persa la palla lì, punizione, e dopo c'è stato il calcio d'angolo e dopo c'è stata la parata di Neto. In quel momento lì la palla bisogna essere più scatti, più furbi, siccome la squadra è così, in quel momento lì bisogna capirlo. Pochi fiocchi sul pallone, ma in quel momento lì bisogna essere molto pratici. Ho un gruppo di ragazzi straordinario che stasera ha avuto una reazione molto bella e soprattutto questa partita ci dà la spinta ancora di più per domenica, dove dobbiamo assolutamente chiudere il campionato. Siccome nel calcio ne succedono di tutti i colori, allora bisogna sempre tenere le antenne ben dritte, soprattutto in questi momenti quando sei vicino all'obiettivo. Ci vuole molta calma, molta serenità e lucidità per arrivare a centrare e a prendere tutte le cose che dobbiamo prendere. Queste non sono parole di ieri, ma un blob, un riassunto dell'Allegri pensiero che mi sembra estremamente interessante. Ringrazio Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronati in regia, ovviamente Edoardo Lavezzani in redazione. Pierluigi, abbiamo un grande allenatore di un altro sport, Sì. Mito della pallavolo italiana, che ha vinto qualunque cosa, da allenatore così come da giocatore, è stato tecnico della nazionale italiana, da bronzi olimpici a mondiali a europei. Ora allena in Polonia, a Danzica, ed è Andrea Anastasi, oltre che grande juventino. Ciao Andrea, grazie. Ciao a voi ragazzi, grazie della telefonata. Ciao, senti, il tweet di ieri sera, ce lo racconti? Quello sì. Raccontacelo e raccontaci perché hai scritto così. Ma ti spiego, no? Ovviamente sai che sono un grande tifoso juventino, sì. E ho avuto anche la fortuna di essere allo Juventus Stadium a vedere Juve Torino con un mio caro amico, ovviamente tifoso juventino. Quando ho visto la squadra in campo ho capito immediatamente che avremmo sicuramente centrato la qualificazione di Champions, che avremmo giocato poi il martedì successivo con Monaco, e quando ho rivisto la squadra che ha messo in campo con la Roma ho capito un'altra volta che avremmo certamente vinto la Coppa Italia. Perché secondo il mio punto di vista quello che ha detto prima Allegri era quello che io pensavo, cioè lui ha spostato l'attenzione, la concentrazione dei ragazzi sugli eventi principali, ed in quel momento era la qualificazione alla finale di Cardiff contro il Monaco e ovviamente alla finale. In mezzo c'erano due partite, non poteva dare attenzione alla Roma e al Torino, scusate, anche se sono tifoso. No, ma tu hai scritto preferisco sì. l'Allegri nervoso di stasera a quello tranquillo di domenica, però spostare l'attenzione non è come spostare un bicchiere da qui a lì, cioè ci hai vuole ragione. È una cosa, ragione, una cosa grande. Hai ragione, cioè, io apprezzo, sai, gli allenatori di carattere, lui è un allenatore che è di carattere, perché prendere la Juve dopo il Conte ci voleva carattere, lui l'ha dimostrato, e quando calcia la bottiglietta di Coppa Italia ho detto ci siamo, mi piace, il ragazzo c'è. Hai capito, Pardo? Hai capito la spiegazione di Nanna Anastasi? Sì, devo dire che la cosa che mi interessa capire, sapere se anche lui si preferisce nervoso piuttosto che rilassato, cioè se questo principio vale solo per Allegri e per la Juve, è un principio che vale anche nella sua vita, nella sua esperienza. No, vale per la mia vita. Ovviamente io ho apprezzato perché sono un allenatore molto impulsivo a volte, no? Molto caratteriale. Quando sono troppo tranquillo a fine partita i miei cari o i miei dello staff dice coach, eri molto tranquillo. No, se sono troppo tranquillo c'è qualcosa che non funziona, vuol dire che non do la carica e le energie che devo dare. Ogni allenatore, secondo me, trasmette alla squadra quello che è. Ci sono allenatori molto pacati, molto sereni, che lo sono nella vita, non sono nella conduzione dello spogliatoio, e quindi è giusto che sia così anche durante la partita. Ma secondo me Allegri è questo. Allora, è quello che si strappa la giacca durante si strappa la giacca. Perché... Allora ti racconto, ma lo saprai già perché questa intervista è piuttosto famosa, vi ricordo l'intervista rilasciata da Evra, che è stato un giocatore chiave per la Juventus, soprattutto nello spogliatoio, uno dei leader di questa squadra. Sì, sì. e che ha detto, riferendosi ad un episodio dell'anno in cui la Juventus andò in finale. Allora, andata a Torino, Juventus Borussia Dortmund 2-1, giocano a Dortmund. Ovviamente una partita non scritta. Allegri disse: state tranquilli, sarà come un'amichevole. Io rimasi perplesso. Poi ci fece vedere un video che ci mostrava le debolezze della difesa tedesca e gli spazi che dovevamo attaccare. Si verificò tutto, fu come muoversi all'interno di un film. Vincemmo 3-0. Me la spiegate? Ho letto e ho apprezzato. Secondo me è verità, cioè è padrone della situazione. E io ho sempre questa situazione, ho questa idea di Allegri, no? È padrone della situazione. E credetemi, essere padrone della situazione a Torino non è facile, perché se si pensa a quando è arrivato, io sono super juventino, non ero molto felice della scelta di Allegri, come tutti i juventini naturalmente, no? Ma solo per un discorso di support. Però cosa ha fatto? Ha fatto meglio di Conte. Per fare meglio di Conte vuol dire che realmente ha qualcosa dentro che va al di là, è un grande allenatore. Ed è cresciuto Pierluigi, lo conosciamo da anni, cioè Sassuolo, poi il Cagliari, poi il Milan, è cresciuto enormemente Allegri. È chiaro che ha avuto la squadra della grande squadra che è il Milan. Ha avuto una grande squadra e ha avuto anche sicuramente attratto giovamento dal lavoro di Conte e dal fatto che nel calcio di oggi, se prendi un vantaggio e non fai errori, e la Juve non ne sta facendo, questo vantaggio tende ad alimentarsi e ad aumentare. Detto questo, poi c'è il grande merito, insomma, sapete, io sono allegriano perché penso che Allegri abbia una capacità, e l'ho dimostrato secondo me anche 2 anni fa quando la Juve è arrivata in finale a Berlino, abbia una capacità rispetto a Conte che si sta formando in maniera strepitosa e secondo me quest'anno ha fatto un capolavoro, ha una capacità di gestione delle situazioni ancora più matura. Bravo, è uno che lascia ai giocatori la giusta lunghezza della catena, mi viene da dire. Non li stressa più di tanto, non alza la voce quando c'è da alzare la voce, insomma sa come comportarsi, per questo secondo me è veramente tra i top mondiali, più di Conte. Io voglio chiedere ad Anastasia ancora una cosa invece. Ne parlavamo prima pure con Marocchi. Mi sembra, Andrea, facciamo tutti gli scongiuri del caso, che di triplete si parli un po' troppo, che quella partita con il Real Madrid, che pure sappiamo è fortissimo, la si dia un po' troppo per scontata. Mi sembra che allora, come qualcosa che c'è nell'aria, certo, di ineluttabile. Allora, io ti voglio dire una cosa. Intanto, devo essere sincero, sono anche tifoso del Real. Tu mi dirai perché? Perché ho allenato 2 anni in Spagna e nei miei 2 anni in Spagna la federazione spagnola era a Madrid. Io tutte le volte che ero a Madrid, naturalmente, seguivo con il mio team manager la squadra, che era un socio, è un socio con i 4 carnet di ogni socio. Quindi sono diventato socio. Sì. Io seguo sempre il Real Madrid. È una squadra estremamente pericolosa, secondo me gioca molto meno bene della Juventus, però davanti a giocatori che la possono buttare in colpo, che hanno il colpo, certo, e nel calcio lo sai bene anche te, una squadra, una finale secca conta avere probabilmente Cristiano Ronaldo e quant'altro, non è facile, ripeto, certamente. Ok, lo scudetto onestamente è andato, dai, quello è andato, di Giorgio Scaramanzia. Senti, ti posso rubare altri 30 secondi dopo il traffico, perché io ho ancora una domanda, non so, Pardo, l'ultima, giuro. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Allora, la mia ultima domanda ad Andrea Anastasi è questa. A Pardo l'ho già fatta un sacco di persone e tutti mi hanno dato la stessa risposta. In caso di triplete, resteresti o te ne andresti via in vacanza, anno sabbatico, da un'altra parte all'Inter o che ne so, Andrea? Allora, se io fossi in Allegri andrei all'estero al 100%. non in Italia, ma andrei via al 100% e andrei all'estero. Secondo ecco, me in questo momento sì, il campionato più bello in Inghilterra, andrei in Inghilterra. Ho capito, e allora ma la domanda così libera... ce l'ho io. Vai. A quel punto la Juve che deve fare qualora succedesse questa cosa? Cioè c'è un uomo che per caratteristiche, per physique du role, per qualità, per capacità di sposarsi all'ambiente della Juve e alla squadra vincente di questi anni potrebbe sostituirlo? Allora, fermo restando che io adoro Guardiola, che purtroppo è fermo, penso, al City, un altro allenatore che mi piace molto è Spalletti, l'ho sempre apprezzato, è un allenatore schietto, diretto, toscanaccio come Allegri, e potrebbe far bene anche lui alla Juve. Sì, però Andrea, tu dici andrei in Inghilterra, bisogna capire dove, perché cosa va al Watford, non ci sono panchi, no, grandi panchine libere, quindi no, questo vorrebbe dire anno sabbatico, giusto? Meglio, può farlo tranquillamente, di certo se vince il triplete, dai, non può rimanere, sarebbe il più grande errore della sua vita. Sono d'accordissimo. Ci sono caselle che devono ancora riempirsi, perché è vero che il Barcellona, tanto per fare un esempio, stava cercando, cercando una soluzione interna, quantomeno una soluzione spagnola, però... Insomma, le cose cambiano pure. Un Allegri che vince, adesso dico così, la Juve, tocchino, ferro, do 3 secondi prima di ripetere la frase, portatevi in una zona dove c'è qualcosa da poter toccare. Allora, ammesso che vinca, che faccia quella cosa lì che si chiama triplete, insomma, pure il percepito di Allegri cambia. C'è un Allegri di prima Juve-Barcellona e un Allegri post-Juve-Barcellona. Questo insomma, è sicuro. Questo in è sicuro, borsa, questo è sicuro Pierluigi, però c'è il Barcellona che è più che altro una filosofia e il Paris Saint-Germain che mi sembra una diminuzio, onestamente, nonostante tutti i quattrini che hanno, e tra l'altro da ieri Monaco ufficialmente campione di Francia. Grazie Andrea Anastasi. Grazie a voi. Grazie, grazie. In bocca al lupo per... Avventura in Polonia, Danzica. Danzica, sì. Bella città Danzica, tra l'altro. Bella città, sì. Gabriele, anche Palermo è una bella città, cioè Gabriele. Gabriele. Ciao, preferisco con tutto l'affetto per Danzica. C'è il mare anche a Danzica, sì. Però. Poi arriva Claudio che è da un'altra città meravigliosa, una delle mie preferite, Trieste. Gabriele, dica. Bella. Dica, Gabriele. Sì, qua oggi è una giornata bellissima. Va bene, allora, io intervengo per rovinare un po' questa vostra atmosfera, così, tutta rose e fiori. La mia considerazione è la seguente. Io ho grande stima di Allegri, secondo me ha fatto un lavoro splendido. Non ho invece grande stima a livello umano, per quanto sia un grande imprenditore. Sì, perché non mi piace. Considero Agnelli e Marotta due personaggi diciamo che non hanno la mia stima a livello umano, a livello diciamo. Che l'hanno fatto, scusi. Ma guardi, allora, questa società, la Juventus, l'anno scorso ha deciso di togliere alle due rivali principali i due calciatori chiave, no? Benissimo, dunque... non fa una piega. La stessa squadra quest'anno adotta, secondo me, una strategia studiata a tavolino per mettere fuori causa o per tentare di mettere fuori causa l'avversaria che più considera pericolosa per il 2018, cioè il Napoli. La strategia che deve fare? Se hanno, no, mi scusi, ma è così, è un po' così e fan tutti. Volendo, c'è anche il caso Rincon. Guardate, io non sto discutendo. Il mio ragionamento non è un ragionamento di combinna. Per me non è una questione di Gabriele, non è una questione di combine. Vabbè, ma ci sta, insomma. Certamente è molto efficace. Alla fine Higuaín l'han pagato il prezzo che c'era scritto sul cartellino, Quindi poteva capitare quello, magari quest'anno andrà a prendere Nainggolan alla Roma. L'ascoltatore, scusate, cioè, adesso non è che voglio fare l'interpretazione, dice che per carità non c'è niente di male, a lui non fa simpatia, diciamo, questo tipo di ragionamento che è sì, molto... però dire non stima umana di Allegri, no, già, infatti, Allegri mi direi... sembra assolutamente una persona per bene come Marotta e Agnelli. Claudio Trieste, buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione, la migliore sul calcio, per il distacco. Mi è piaciuto questo scherzo. Allora, una considerazione. Intanto premetto che sono romanista, quindi per me ieri l'unico esito positivo sarebbe stato che il campo si aprisse in due e inghiottisse le due squadre. Sì, ovviamente. Un grande cratere. È un'iperbole, ovviamente. Ovviamente un'iperbole. Un meteorite che cade su... E infatti, volevo chiedervi questo, io non ho capito una cosa della finale. Sì. E come mai Inzaghi se l'è giocata così e non se l'è giocata come ha giocato le semifinali con la Roma? Cioè, coprendosi a dovere, non avrebbe preso quel gol al dodicesimo, e se non avesse preso quel gol al dodicesimo non prendevano neanche il secondo, perché hanno perso la testa, perché se lasci Bonucci da prima. Solo io avrei fatto il contrario, cioè avrei rischiato, avrei fatto Lolina, avrei messo Felipe Anderson, però la controprova, caro Luigi Pardo, non la trovi neanche a tiki taka della sette. La controprova non c'è neanche a tiki taka, e probabilmente lui come caratteristiche pensa che la Juve debba essere attaccata, o comunque che se ti chiudi troppo con la Juve alla fine di col te lo fanno e esci male. Probabilmente avrà pensato, comunque la Juve nelle ultime partite un po' aveva faticato, no? Noi ieri a quest'ora dicevamo la partita di Coppa Italia ci avrebbe detto la verità sulla Juve. Sicuramente la Juve veniva da una serie di partite non brillantissimissime, diciamo, con i passi di espressione, e quindi probabilmente ha provato a mettere a nudo con una partenza forte eventuali difficoltà anche psicologiche, cioè in generale qualche dubbio nella testa dei giocatori della Juve. Se fosse entrato quel pallone all'inizio, magari con Lazio in vantaggio, ci poteva essere un momento di difficoltà. Quindi credo la scelta fosse questa. Con la Roma se l'è giocata benissimo, sì, ricordiamo sì. Ovviamente soprattutto la partita andata, che la Roma era in grande condizione, aveva vinto a no tiro. Ma questo è indiscutibile. Adesso aspettiamo Real Madrid, di cui tra l'altro parleremo dopo il GR, parleremo del Giro d'Italia, di Real Madrid che ha vinto a Vigo con un grande Cristiano Ronaldo, parleremo di Fognini che ha perso invece oggi al Foro Italico, capita anche questo. Grazie per Luigi Pardo, ci sentiamo domani. Ciao. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da Al Servizio Sanitario Nazionale. Aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Sai, non si sa mai con la crono di ieri, magari a qualcuno gli è rimasto un po' di più sulle gambe, quindi ho detto proviamo, vediamo se succede qualcosa, se qualcuno magari sta male, si nasconde e magari riusciamo a guadagnare qualcosa. Però alla fine i vari big stavano tutti abbastanza bene, l'unico che ha fatto poi l'accelerata, una volata in cima è stato tipo Pinot, però alla fine siamo andati forte tutta la discesa, non era una discesa dove si poteva fare selezione. Questo è Vincenzo Nibali, mentre su un altro fronte ben più drammatico siamo tutti in apprensione per Nicky Hayden, ex campione del mondo di MotoGP, ex Ducati tra l'altro, grande persona, grande uomo che è in condizioni davvero molto gravi dopo l'incidente avuto in bicicletta ieri. Andare in bicicletta sta diventando qualcosa di estremamente rischioso e pericoloso, soprattutto nel nostro paese, e magari qualcosa bisognerebbe fare. Piero Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Senti, parliamo invece di giro. Parliamo di giro. Allora, ieri nulla è successo, ma nulla doveva succedere. Io ho avuto un diverbio quasi con Franco Ordine che diceva Giro d'Italia non ci sono personaggi. È vero, non ci sono personaggi, però ci sono corridori, e corridori veri come Nibali e come Quintana. E Nibali ha detto ma perché non attacca? Sappiamo che i due non si amano moltissimo, siccome questa rivalità può far bene anche al giro dal punto di vista mediatico, no? Assolutamente sì. Sai, non ci sono personaggi, bisogna capire se sono d'accordo con te. Vincenzo Nibali è un campione, quindi non ha quasi bisogno, neanche Pirlo era un personaggio. Franco lo sa bene, no? Lo so, però possiamo convincere. No, ma io infatti difeso a spada con lo spadone il Giro d'Italia per quello che è e rappresenta, soprattutto quest'anno per varie ragioni. però dobbiamo dire che i personaggi alla Ino, alla, no, no, non citando solo gli italiani, Moser, Saronni, ovviamente arrivando a Pantani, arrivando ad Armstrong, eccetera. No, beh, quelli, cioè, quelli, dirò, man- quelli ci dirò, mancano, Pier. Se mi consenti, Carlo, sono d'accordo, però non metterei i no, perché Bernardino, Saronni, Moser, personaggi assolutamente hanno creato veramente non dibattito, ma fratture. Sì. Nel mondo dello sport e del ciclismo. Bernardino era invece un personaggio introverso che ha fatto parlare modello Pirlo, per dire, perché vinceva però era molto carismatico, era molto carismatico. Anche Indurain non era certamente personaggio, era meno carismatico di no, però vabbè, stiamo parlando di dettagli. Però era poco personaggio, dobbiamo capire cosa intendiamo assolutamente, per personaggio. Assolutamente. Vincenzo Nibali è un grande campione che ha vinto 4 grandi giri, ha vinto 2 giri d'Italia, un Tour de France, una Vuelta, è lì che sta lottando e lotterà fino alla fine per vincere il suo terzo giro e eguagliare e raggiungere un monumento del ciclismo mondiale che risponde al nome di Felice Gimondi. E sta lottando, come stai ricordando giustamente tu, con un corridore che non è personaggio, ma uno che va maledettamente forte in bicicletta. Come Nairo Quintana. Mannaggia lui. Che si chiama Nairo Quintana. Senti, dove mettiamo? Dov'è la lo si diventa sui grandi traguardi. I grandi traguardi sono lì tutti da venire. Questo è sabato vero, però Europa, sai, io. Sabato Europa. Certo, se noi volessimo Marco Pantani, ragazzi, Marco Pantani era dai tempi di Coppi. No, ma al di là di quello, lo so, appunto, lui era uno di quelli che parlavano e tu lo stavi a sentire. Sto parlando di mediaticità, non di forza. Non è solo parlare, Carlo. Marco gli bastava togliere la bandana con quella sua bellissima crappa pelata, ci faceva venire i brividi. E c'erano alcuni corridori e alcuni se tu ti ricordi, perché eri al giro con me, che ci chiedevano a noi giornalisti: ma perché parlate sempre di Marco Pantani? Ma anche Van Gogh ha vinto dei giri d'Italia. Lo so, però oggi mi dicono ho scoperto, scanalando, ho scoperto Radio Juventus 24. Di che dobbiamo parlare, ragazzi? Di Fritto Misto, lo facciamo anche con Pardo. Bravo. Però di che dobbiamo parlare? Non è che non mi pare che li ho citati i primi grandi giornali sportivi oggi aprano con altre cose. Vabbè, comunque. Pier, ci sentiamo domani. Ciao. No, Carlo, dimmi. Volevo però darti solo una battuta, una piccola notizia di cronaca. Sì? Che il Gran Premio della Montagna, il primo Gran Premio della Montagna in autostrada, è stato vinto dal Reggiano Maestri. Questa hai fatto bene. Oggi c'era l'autostrada esperienza già vista 33 altrove. 33 chilometri. Sì, il Giro d'Italia per la prima volta. Se non ricordo male, è andato in autostrada. Se non ricordo male, ci fu una Milano-Sanremo che andò in autostrada per ragioni però di viabilità. Grazie, Pier. Ciao, ti abbraccio. Carlo. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, Pier Augusto Stagi. 800240024 è naturalmente il vostro numero verde, siamo qui per parlare di tutto, non solo di Juventus, però ripeto, ragazzi, di cosa volete parlare? Decidetelo voi, avete un numero verde, avete la voce, siete ben accetti in ogni momento, che volete di più? Io parlo con Filippo Maria Ricci, come sempre con grande piacere. Ciao Phil. Buon pomeriggio a Madrid, tutti contenti, l'ostacolo, finalmente questa parete è stata recuperata con il Celta di Vigo, che non era esattamente una squadra degli ultimi arrivati, è stata superata d'imperio dal Real Madrid, che ha messo le mani sulla Lega, giusto? Sì, una Liga che manca da 5 anni, quindi importante, che Madrid ha vinto molto poco ultimamente, e sì, un piccolo aiutino dell'arbitro, che non guasta mai, in un momento decisivo, con un possibile rigore per il Celta che diventa punizione per il Madrid e secondo cartellino giallo al miglior giocatore del Celta. Detto questo, il Madrid è in grandissima forma e la gestione di Ronaldo, bisogna fare, noi no perché magari siamo italiani, però in generale figurativamente si può fare un monumento a Zidane per come ha gestito Ronaldo, non l'ho mai visto giocare così bene, e non sono solo i gol, eh. No, ma stesso discorso possiamo fare, che ho fatto anche prima con Dani Alves, per quanto riguarda Allegri, perché io non lo so, tu ne sai molto più di me, ma su questi livelli da 4 anni non si vedeva neanche a Barcellona, eh. No, solo su, in certi momenti. Dani Alves è un momento da, è un tipo da partite grandi, questa continuità. Guarda, ieri ho letto, per esempio, ha fatto 3 gol in ultime 5 partite, non le aveva mai fatti. Ha fatto gol in tutte le competizioni e non gli era mai successo. Mm. E in generale, sono piccole cose che testimoniano, sì, insomma, un grandissimo livello. È chiaro che le ultime 2 stagioni al Barça lui faceva anche, però era comunque molto infastidito dal rapporto con la... Sì, no, l'ultima, alla fine, la fine non conta, la fine è una storia finita. No, però è chiaro, trovarlo a questi livelli, siamo ai livelli di... Ascolta, certamente, siamo ai livelli di quella Dani Alves, che era su quella fascia, era più forte al mondo per distacco. Discutevo, tutto il pomeriggio che lo faccio su questa, voglio farlo anche con te, su questa grande certezza, su questo grande ottimismo che accompagna la Juventus a Cardiff. Sembra quasi si respiri nell'aria, no? Non solo per i titoli di giornale, ma c'è una grande certezza, giustificata, per carità, per il valore della Juventus, però potrebbe essere rischiosetto. Cioè, vedo una sicurezza, un ottimismo che mi sembra finanche eccessivo. Allora, l'ottimismo per me è sempre positivo, però con cabeza, come si dice qua, con testa, cioè un ottimismo che è con rispetto, perché comunque questo Real Madrid è una grandissima squadra, ha una panchina meravigliosa, ha una forza mentale mostruosa, ha vinto 200 negli ultimi 3 anni, è abituato a giocare a vincere le finali a Ronaldo, che così con... come hai detto non si vedeva da tempo, ci aggrappiamo a Bale sì, esatto, questa è una grande incognita. Questa è la grande incognita, perché se torna condiziona proprio tutto l'impianto tattico, che è paradossale, attenzione, che poi lo so, è chiaro, perché poi questo è un grande campione, però anche Isco, prima abbiamo citato Dani Alves, abbiamo citato Cristiano Ronaldo, io Isco, che l'ho sempre criticato, non l'ho mai visto con questa continuità, però è chiaro, perché si è sempre dovuto adattare a fare un ruolo che non era il suo. Però è escluso comunque che Zidane, essendo abile arruolato, lo possa lasciare fuori alla finale di Cardiff, no? È casa sua, cioè cosa gli dice? Dice no, guarda, andiamo a casa tua, però tu dormi in terrazzo, cioè non lo può fare. Cioè, fammi capire, la squadra viene prima di tutto, questo dice tutte le domeniche Spalletti quando fa entrare un minuto e mezzo Totti, la squadra viene prima di tutto, mi serve che stia fuori Bale, però c'è l'editto gallese per cui presidenziale, l'editto gallese, il principe di Galles e Florentino Perez, sì, milioni, il principe di Galles, sì, cioè, tutte le teste formate che vuoi, sì. Però vediamo come arriva, io lo vedo abbastanza lanciato dai segnali che ho io, che arrivano da Valdebebas, ovviamente il ragazzo sta facendo di tutto per arrivare alla sua partita. Ma no, ma nessuno mette in discussione il valore di Bale, che uno dei più grandi giocatori del mondo. È una questione di equilibrio tattico, è come chiedere ad Allegri, ok, in finale lasci fuori, non so, faccio un nome a caso, Mandzukic, perché dobbiamo far giocare mettine uno tu a Marchisio, uno tu a caso. Sì, no. Mi sembra questo il discorso paradossale. Però voglio passare a un altro argomento ed è l'ultimo. Vai. Allora, panchina del Barcellona. Prima ne abbiamo accennato. Faccio la domanda anche a te. Ma così sto aprendo questo referendum, ma tanto è un referendum a senso unico, perché sto aspettando ancora qualcuno che mi dia una risposta diversa. In caso di triplete, fossi in Allegri, te ne andresti o resteresti? No, io resterei sempre, tutta la vita. Attenzione, Filippo Mariarici, l'unico, segniamolo. Sì, No, no, tutta la vita, no, bisogna rimanere, perché io andrei via. A me questa storia di vincere e andare via mi sembra un atto di, tra virgolette, adesso non esageriamo, però mi piace usare la parola di codardia. È difficile arrivare al top, ma la cosa bella sì, è rimanere. Infatti Luis Enrique ha fatto una bella fine. Vabbè, che c'entra, però attenzione, il... No, io non bisogna guardare le cose così. Però allora, vediamo la Juve il prossimo anno. È difficile che qualcuno la scalzi dalla Serie A, la Coppa Italia, va bene. E in Europa, da vedere cosa arriverà dal mercato, potrà comunque essere sicuramente competitiva. Non è che tu dici che aveva ragione Mourinho a andare via perché vedeva che era il ferro, era proprio al limite. Però questa Juve è in crescita. Ma io sono filosoficamente filosoficamente un'altra idea, cioè così peggio non puoi fare. Poi cosa stai a fare? A ricostruire un gruppo, a ricostruire una squadra, a riprovarci, a rivincere continuamente, lo fai da magari da un'altra parte. Ma no, non è vero, perché 14 trofei su 19 di Guardiola resteranno per sempre, è rimasto lì a vincere. Lo so, è rimasto lì a vincere. No, ma è un'opinione che noi registriamo, perché è l'unica di questo tenore. Ma te lo assicuro. Sono proprio uno straniero, Sei proprio uno straniero. Ce l'ha detto oggi, solo oggi ce l'hanno detto Marocchi, ce l'ha detto Anastasi, ex GT della Pallavolo Italiana, tutti la stessa risposta. Un'ultima cosa, Valverde ha costato sempre di più alla macchina del Barça, ma in Italia a Roma parlano ancora di lui anche per il dopo Spalletti. Allora, non è fatta ancora, non è chiusa, la situazione, c'è grande caos come in tutto il Barcellona, questa dirigenza è abbastanza scarsa, diciamolo pure, sì. E c'è grande confusione, partiamo sempre da questo famoso contratto di Messi che è ancora lì da firmare, no? Sembra che debba firmare ogni giorno, però ancora non ha firmato, è passato di lì. E Valverde è il candidato in pole position, ma la decisione non è stata presa, non c'è niente di tutto, per cui... guarda, io ti dico una cosa, Valverde lo vedo meglio alla Roma che al Barcellona. Mi piacerebbe molto vedere il Cingurri Valverde, ovvero la formica a Roma, mi piacerebbe. Secondo me al Barcellona non lo so, sarebbe meglio Allegri, però... sarebbe meglio Allegri. Dove? Alla Roma o al Barcellona? Al Barcellona. Allora devi stare alla Juve, perché devi vincere, no? No, ho ricevuto prima un ascoltatore un messaggio, un WhatsApp interessante. Prossimo allenatore della Juventus potrebbe essere Carrera. Non è una brutta idea, quest'anno ha vinto, che abbiamo sentito l'altro giorno, ha vinto il titolo russo. Nessuno ci pensa, attenzione. Attenzione. Ciao Filippo, ci sentiamo prestissimo, ovviamente, ciao. E ripetutamente. Faccio la stessa domanda, poi andiamo sul tennis, anche perché così ci addolciamo un attimo la pillola amara che abbiamo appena ingoiato con Fognini eliminato a Roma. Vincenzo Martucci, professore, buongiorno. Buongiorno a voi, come va? Molto bene, se sei Allegri e fai il triplete, rimani o vai via? Io vado. Ah, vedi, siamo praticamente un plebiscito, l'unico non d'accordo è Filippo Maria Ricci. Vado anch'io naturalmente, va a casa invece Fognini, Fabio Fognini. Sentiamo le ultime battute della telecronaca di oggi. Zverev ha giocato in maniera impeccabile sia il primo che il secondo set, meritatamente va per la terza volta in quarti di finale in un 1000 in questa stagione, e le speranze invece di avere nuovamente un italiano dal 2012, quando era riuscito Andrea Seppi, le dovremo rimandare a un'altra volta. D'altra parte abbiamo aspettato 10 anni per tornare a battere il numero uno del mondo, peccato però. Esatto, la stella che nasce. Noi avevamo appuntamento ieri, ve lo posso dire, con Vincenzo Martucci per parlare della vittoria di Fognini su Murray, mentre della desaparecida Sharapova. Ci troviamo oggi a commentare questa sconfitta con la stella che nasce. Sì, io sinceramente vorrei un attimo staccarmi da questa stella che nasce, perché? Perché non è un po' falsato questo risultato, nel senso che questa stella è sicuramente una stella che nasce sul cemento e sull'erba. Sulla terra io sono ancora perplesso, poi magari i risultati proprio in questo torneo mi smentiranno. Io sono convinto che oggi Fognini, non dico se avesse giocato come contro Murray, perché esattamente quello che non doveva fare è quello che ha fatto, cioè ha giocato a viso aperto contro uno molto più in forma fisicamente, molto più potente di Murray, e non era questo il gioco che doveva fare. Lui doveva giocare come si gioca sulla terra rossa, alternare palle corte, palle profonde, impedire che il suo avversario colpisse con potenza. Invece si è ficcato in un imbuto tattico, tecnico, nel quale invece avrebbe dovuto infilare il suo avversario sfruttando la propria esperienza. Probabilmente non c'è riuscito perché aveva altro per la testa, appunto la nascita del primogenito a Barcellona, forse. Sì, però io credo che sia stato preso molto dalla sua... Non mi piace neanche la scusa, non volevo giocare a mezzogiorno. Bravo, volevo giocare di sera. Bravissimo. Sembra Sarri. Bravissimo, sono tutte cose che io non accetto, soprattutto da un giocatore di 30 anni che ma gioca no, contro uno ma di giochi 20. In tutti i tornei del mondo giochi quando ti dicono di giocare, punto. Il caldo era tutto per lui, perché difatti il ragazzo tedesco nel secondo set un piccolo calo l'ho avuto, ed è stato un calo fisico, ha sbagliato delle cose che nel primo non sbagliava. Se io ti dico ancora di più, che nel secondo set se lui fosse stato un attimo più attaccato, non si fosse subito fatto scappare fino a 4-0, sì, addirittura rischiato il 5-0, io sono convinto che ancora la partita si poteva riprendere con l'aiuto del pubblico, con la sua esperienza, la terra rossa. Quindi io non so, ci andrei un attimo cauti su questa stella che nasce anche sulla terra rossa, perché le mie perplessità perché Fognini ci ha messo del suo. Senti, bravo, Vincenzo, parecchio. Un'ultima cosa, poi tanto ti leggiamo tutti su Sport Senators sul web. Questa Parigi che nasce senza stelle. È un po' una Parigi un po' opaca, però vedi che i francesi come sono fatti i francesi, a differenza nostra, loro hanno una cosa che noi non abbiamo, forse non abbiamo più, e spero che recupereremo in fretta, l'orgoglio di essere forti a prescindere dagli altri. Siamo forti, sì, perché siamo Roland Garros. Questa decisione della non siamo forti perché siamo al Tour de France, però bravissimo. C'è un limite, anche siamo grandi, poi ci sono anche insomma dei... Però vedi la decisione con Sharapova, voglio dire, da una parte possiamo discutere quanto vogliamo, però loro hanno detto noi non gliela diamo, perché questo torneo è grande anche senza Sharapova. Sarebbe stato comodo per loro appunto in un momento senza stelle recuperare come hanno fatto gli altri tornei, facendo l'interesse del botteghino come ha fatto Roma e tanti altri, non contesto la cosa, dico però che loro hanno voluto ribadire noi siamo diversi, sì, e insomma, sì, insomma voglio dire, è una cosa anche positiva, ha una sua logica, certamente logica, non so, dal mio punto di vista difficilmente condivisibile, ma questa è un'altra storia di cui parleremo. Ciao Vincenzo, grazie, arrivederci. Ciao. Ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.